In questo percorso che stiamo studiando di Hasidut, qui nel Umayyan, stiamo vedendo in realtà diversi aspetti della lotta con il Yetzer Hara. La parte che è stata approfondita già da un bel po' di capitoli è quella della falsa speranza che la persona che vorrebbe seguire il Yetzer Hara si convince, si autoconvince che mi andrà tutto bene, come abbiamo citato anche dalla Torah, Shalom Yieli, avrò per me la pace, eccetera, eccetera, perché seguirò il mio cuore. Abbiamo visto come c'è questa illusione, l'abbiamo spiegata su vari livelli, anche sul livello cabalistico, l'aspetto del legame con la luce, diciamo così, Makif, con l'aspetto trascendente della luce divina, eccetera. E abbiamo approfondito come in realtà il legame tra Kadosh Baruch Hu e Am Yisrael è particolarmente diverso da questo, è un legame molto stretto, un legame che non si può definire come trascendente, anzi è più quello che noi abbiamo definito penimi, interiore, e quindi segue determinate regole ed è molto regolato, se vogliamo. In questo capitolo che vedremo oggi andremo a concludere questa parte e poi si proseguirà la prossima volta, nella prossima sezione del libro, con altri aspetti della lotta con gli Yetzer Hara. Altri motivi per cui la persona potrebbe seguire le indicazioni dello Yetzer Hara, del proprio istinto verso il negativo. E quindi però oggi andremo a concludere questa parte qui. Vediamo cosa dice. Veseu dichtiv, quanto abbiamo visto finora, può essere uno strumento per spiegare a noi quanto è scritto nel libro di Ezechiel, pagina 42 all'inizio. Sì. È scritto nel profeta Ezechiel, Veha ole al ruchachem. Ciò che vi viene in mente, spiega Rashi. Ciò che vi viene in mente, hayolotie, non sarà assolutamente, hayolotie, non verrà a realizzarsi. Cosa vi viene in mente? Asher atem omrim, ciò che voi dite, dice il profeta al popolo, niye kagoyim, vorremmo o saremo come tutti i popoli, kagoyim, come gli altri popoli. E cioè, nifrok ulo me'al tzavarenu, getteremo dal di sopra del nostro collo il suo giogo, me'achar sheshilach me'alav, poiché lui ha mandato noi via, cioè come se lui non ci ha più, Akadosh Baruch Hu non ci riguarda, non ci guarda più con quel riguardo. E noi togliamo il suo giogo e saremo come tutti gli altri, saremo in mano, il nostro destino sarà in mano nostra, decidiamo noi quello che sarà di noi. Che mishpechot ha'aratzot, come le altre famiglie delle altre terre, di tutte le terre, le sharet etz va'even, servendo le statue. Bravo. Gli idoli etz va'even, la legna e la pietra. Ah, i materiali. Dice il profeta, chai ani, è un linguaggio di giuramento, neum Hashem, un linguaggio giuramento a nome di Dio, Elohim, im lo biyad chazaka. Se serve, sarà anche con la mano forte, o bisro anituya, e con il braccio steso, o becheimash fucha, e con una ira che si riversa verso di voi, e chalot aposhim veamordim, per eliminare coloro che sono malvagi e coloro che sono ribelli, emloch alechem, pur per rimanere re su di voi, dice Akadosh Baruch Hu. Cosa significa? Queste sono le parole del profeta. Ora citiamo le parole del Midrash che riempiono i buchi, diciamo, i vuoti in queste parole, danno il contesto e spiegano meglio di cosa si tratta. Midrash Tanhuma Ita, il Midrash dice, che shebikshu Yisrael lifrok ol shevuato, quando il popolo ebraico voleva, ai tempi di Hezkel, del profeta Hezkel, togliere da sé appunto il giogo, qual è il giogo? Il giogo è il giuramento che HaKadosh Baruch Hu fece che noi saremo sempre il suo popolo. A un certo punto il popolo ha detto: chi me lo fa fare? Mi tolgo da questo legame. Maktiv Sham, cosa è scritto lì? C'è un altro versetto che non abbiamo citato, il Midrash ci dà un po' il contesto. Bau Anashim, vennero delle persone, Miziknei Israel, degli anziani che è associato con i saggi, cioè gli importanti personaggi di Israel, vennero da Yechezkel. L'idroshet Hashem. L'idroshet Hashem vuol dire per cercare Dio, cioè chiedere a Dio, come quando si andava dal profeta si usava questo tipo di linguaggio. Perché il profeta rappresenta la parola di Hashem. Amrulo, dissero al profeta, gli fecero un esempio, che ognuno nel contesto storico di quell'epoca capiva questo esempio. Vediamo che esempio gli hanno fatto. Amrulo, gli dissero, Ben Kohen, un Kohen, Ben Kohen vuol dire un Kohen, figlio di Kohen, cioè un Kohen, Hakone et Eved, che acquista uno schiavo. Allora, la regola è che un Kohen mangia la terumah, e la terumah assume, come abbiamo studiato anche in passato, un livello di santità, ed è vietato a un non Kohen mangiare la terumah. Ma la famiglia del Kohen ha il permesso, come il Kohen stesso, di mangiare la terumah. Vuol dire, una figlia di chi non è un Kohen, che sposa un Kohen, anche lei mangia la terumah come il Kohen, e i figli, e non solamente... Tutta la casa, che vuol dire la casa, anche uno schiavo di proprietà del Kohen, mangia la terumah. Appartiene alla casa. Fa parte della famiglia in questo contesto. Allora, gli hanno detto, Hakoneta, Eved, un Kohen che acquista uno schiavo. Maushe yochal bitruma. Gli hanno posto come se fosse una domanda. Qual è la regola riguardo questo Eved, questo schiavo, per ciò che riguarda mangiare la terumah? Amar lehem, rispose il profeta Yechezkel, Ohel, certo la regola è che mangia. Tra parentesi, il Kohen e gli Yechezkel stessa era un Kohen. Gli ha detto mangia. Amrulo, gli dissero, cosa succede se poi imchazar Kohen u mecharo li Israel? Se il Kohen prende e vende, rivende questo schiavo a un Israel. Adesso il padrone dello schiavo non è più un Kohen, è un Israel. Lo yatzam ershuto. Non è forse vero che ormai è uscito dal suo dominio? Amar lehem gli disse, sì, se Yotzeh mereshut HaKohen, esce dalla proprietà del Kohen, entra all'Ireshut Israel, entra nella proprietà degli Israel, non mangia più la terumah. Amerulo, dissero a lui, sai quello che ti vogliamo dire? Af anu kvar yatzanu mereshuto. Anche noi siamo già usciti dalla proprietà sua, di HaKadosh Baruch Hu. Nige kechol haumot. Preferiamo essere come tutti i popoli. Visto che non vedevano più, si andava verso la distruzione del Bet HaMikdash. Oppure forse era già dopo la distruzione, adesso non so bene perché Hezkel era in quell'epoca. Ormai siamo fuori dal suo dominio. Se siamo fuori dal suo dominio, possiamo fare quello che ci pare. Se lui non fa la sua parte, noi non facciamo la nostra parte. Siamo fuori dal suo dominio. Amar lahem Yechezkel Israel. A questo punto disse Yechezkel agli ebrei quello che abbiamo citato all'inizio. Haole aruchachem ayolotie. Quello che vi viene in mente non sarà mai. Non sarà mai così. Ayolotie, come dire, mai sia. Chai ani neum Hashem Elokim, quello che abbiamo già citato, che giura al nome del Signore, se anche servisse la mano forte, non uscite fuori dal mio dominio. Gli disse a Marlehem, kol zman shelom mecharo, lo schiavo non decide da solo se sta sotto il dominio del Kohen o dell'Israel, finché non lo vende, birshutohu rimane sotto il suo dominio. Nella sua proprietà. Veatem, e voi, Israel, L'onim cartembe damim, non siete stati venduti per i soldi, damim vuol dire i soldi, per il denaro. Come anche detto nell'altro profeta Yeshayahu, Kiko amar Hashem chinam nimkartem, siete stati venduti per niente. Chinam, gratis, cioè nel senso quello che vi accade non è una vendita che io vi tolgo dal mio dominio. E come scritto nella Torah, il giuramento che fece a Kadosh Baruch Hu, Leman hakim otcha hayom lo le'am. A Kadosh Baruch Hu ti stabilisce oggi come popolo suo, Vehu yeh lecha l'elokim, lui sarà il tuo Dio, kasher diberlach, come disse a te, al popolo, e kasher nishba, e come fece il giuramento la avotecha, ai tuoi avi, le Avraham, le Yitzhak, ul Yaakov. E Yechezkel conclude dicendo, shelo echzor badavar shenishbati lavotechem. Non tornerò mai indietro sulle parole che ho giurato ai vostri avi. Approfondendo alla luce di quello che abbiamo studiato in passato, possiamo capire meglio, lui adesso dice. Quando lui dice, quello che vi viene in mente, cos'è questa bella, grande, nuova idea che vi viene in mente? Liot kechol agoyim, perché non possiamo essere come gli altri popoli? Come chiede nel violinista sul tetto. Vai a scegliere un altro per un attimo o due. E cioè, a livello mistico cosa significa? Che il flusso dell'energia vitale dell'esistenza di ognuno venga non direttamente dalla Kedushah, ma dalla Sitra Achra, dall'altra parte, dove c'è meno regolamento, c'è meno occhio, c'è meno, si guarda meno, si disturba meno. Dice questo, mai sia, ayolot iye. Mai sia dire una cosa del genere. Perché voi siete già legati a me attraverso un giuramento. Chelek Hashem, il popolo Chelek Hashem Amo, abbiamo già citato in passato. Am Israel rappresenta una parte del divino, che lui ha scelto loro, loro hanno scelto lui, come abbiamo, se vi ricordate, abbiamo approfondito questo aspetto, e sono legati a un aspetto interiore del legame con HaKadosh Baruch Hu. Per questo è impossibile per Israele ricevere la Shpaha, cioè il flusso, da una parte esterna, esatto, in maniera indiretta. Solamente nella maniera interiore, essenziale, attraverso la Torah e le mitzvot. E per l'amore essenziale e interno che prova Kadosh Baruch Hu per Am Israel, è pronto a volte, anche se necessario, in qualche maniera forzarli, tra virgolette, a continuare ad accettare quel giogo, quel regno divino su di sé. Questo che dice nel profeta, im lo beyad chazaka, se servisse anche con la mano forte. Un altro midrash che cita, qui nell'ultimo paragrafo, che apre anche qui il contesto, che di Ita be midrash rabah, afal pi sheatem lo ami, she tevakshu li paresh mimeni, anche se voi vi comportate come se non foste il mio popolo, questa è una citazione del profeta Oshea, perché vorreste separarvi da me, quindi anche se per voi non vi considerate a volte il mio popolo, ani lo eyelachem, io non ci sto, quasi letteralmente, cioè non sono d'accordo, endati mishtavet lachem, la mia idea non è in accordo con la vostra su questo, e la baal korchachem tiyu ami, anche se fosse contro la vostra volontà, siete comunque il mio popolo. Ed è questo quanto abbiamo detto, Aulea Ruchachem, Ayolot Yeh, lo stesso versetto citato da Ezechiele, detto da Ezechiele, citato anche da questo Midrash. Ha la Madeta, il Midrash conclude, qui l'ultima riga, dicendo, da qui puoi apprendere, puoi evincere, Chibatan shel Yisrael lifnei hamakom, quanto sono amati Israel davanti ad HaKadosh Baruch Hu. In altre parole, questa cosa che non vi voglio lasciare, può sembrare una forzatura, in realtà è l'opposto, è l'espressione di un amore, di un affetto così profondo che non c'è possibilità, come quando tra due persone c'è un amore così profondo che uno farà di tutto perché l'altro lo continui ad accettare. Quello che è successo con Mosè dopo che hanno fatto il vitello d'oro. Esatto, bravissimo. Come Mosè abbiamo visto dopo il vitello d'oro. È salito su per avere le seconde, per avere il perdono, la sì. seconde tavole della legge, e gli dice: come, questo è il tuo popolo, devi perdonare. Bravissimo. E invece ha perdonato. Bravo, ottimo esempio. Allora adesso concludiamo questo capitolo, a pagina 43. Sheze mitzada va primitavka. Questo atteggiamento deriva proprio da un profondo amore interno. Una cosa che è legata in particolare a Israele. Un nimsham, e da questo affetto, da questo sentimento, nimshach leachricham letovatam, che a volte vengono forzati a riconoscere qual è il proprio vero bene, gambe ofanim kashim chas veshalom, a volte anche in maniere dure, mai sia. Kmoshe amru, e come dicono i maestri nel Talmud, Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, trattato di Sanedrin, Kol ki hai ritcha. Magari per una rabbia di questo tipo, addirittura dice. Cioè, magari ci fosse una rabbia di questo tipo che a Kadosh Baruch Hu dicesse: sono così arrabbiato con voi che rivelo il mio regno in maniera rivelata, in modo tale che accettate il mio gioco. Dice, allora vuol dire che saremo redenti. Se a Kadosh Baruch Hu si arrabbia così tanto che siamo redenti, magari. L'irtach rachamana alan velifrokinan, dice in aramaico alla fine del paragrafo, cioè che Akadosh Baruch Hu si arrabbi con noi e ci redime. Cioè allora siamo così cattivi, rendici redenti. Cioè un modo traverso per arrivare a quello che stiamo cercando. E agli edeice a capenimit, ora torniamo a quello che parlavamo della voce. Vi ricordate, abbiamo visto il paradosso, a volte si dice che bisogna fare tefilà a bassa voce, altre volte invece si dice bene la voce alta. La voce alta rappresenta quel momento particolare, se akape nimit, quel richiamo interno che risveglia meorerim chinat pnimit ve'atzmut enso baruch hu, risveglia la essenza, la parte interna della luce infinita divina, della hata mata akta di Israel, sempre in aramaico, cioè significa che a lì giunge la sofferenza di Israele, cioè lì ha un effetto, anche addirittura in questi livelli così elevati, la sofferenza che si esprime nel richiamo, nella voce profonda, arriva fino a lì, ai più alti livelli del divino. Allora, concludendo, ayotzemi kolanal, ciò che si evince da tutto quanto abbiamo detto nei precedenti vari capitoli, ma shitbarech bilvavo lemor shalom yeli, quando la persona si auto assicura dicendo mi andrà tutto bene, gami mi ase maase achet, anche se si comporterà in una via di peccato, urak, questo convincimento che si convince, questo convincersi, urak mi pituyei va satata yetzer, fa parte della seduzione dello yetzer hara, che lo seduce, lo convince che gli andrà tutto bene, ma non è una logica propria, è una logica degli Yetzer Hara solo per sedurlo al peccato, perché gli copre la verità. Rakshe mechasse, copre, cela, nasconde, un matehu miderech haemet, nasconde la verità e quindi lo fa virare fuori dalla via giusta, e quindi un miha ish, qualsiasi persona, hechafetz chaim, che cerca e desidera la vita, Tzarich liot libo birshuto, deve avere il proprio cuore sotto il proprio dominio e non essere lui sotto il dominio del proprio istinto del cuore. Velo itpate, e quindi non sarà sedotto le divrei havai shel yetzer hara dalle falsità dello yetzer hara. Ve'yavin hetev darko, e capirà bene la sua via. Va'asher notel alav, e ciò che assume su di sé come responsabilità. Vas yelech la betach darko, e quando sarà sicuro di sé e avrà chiara la via che deve intraprendere, allora potrà con auto stima sana intraprendere la propria strada, bekiyuma Torah u mitzvot, facendo la Torah e le mitzvot, velo yasur yamin u smol, e non andrà a destra e a sinistra secondo le indicazioni dello Yetzer Hara, dei pituei a Yetzer. velo Ishmaelav e non gli darà retta, Kichol devarav beshekri sodam, perché tutte queste indicazioni che derivano dallo Yetzer Hara si basano su delle falsità. Beshekri yesodam, ve hakavana, tutto solo con l'intenzione, le nasotò, per metterlo alla prova. Tutto fa parte delle prove, che il compito dello Yetzer Hara è di metterci alla prova. Yetzer Hara sta facendo il suo compito, niente di più, niente di meno. Non è né cattivo né buono, e fa il suo compito. Siamo noi che dobbiamo... Noi dobbiamo capire che quello è il suo compito e dobbiamo fare di tutto di non dargli retta. Ulevavo yavin. Il suo cuore, quando si tiene più sulla retta via, il suo cuore diventa più sensibile a capire la verità. Sempre di più. Et haemet. Vielech lavetach bederech atro mitzvot. E questo gli darà una vera vita, una vera vitalità, sia spirituale che fisica e materiale. E allora, concludendo, coloro che dicono noi vogliamo essere come tutti gli altri, eccetera, eccetera, a Kadosh Baruch Hu con l'amore, a volte con la forza, ma sempre con l'amore, ci fa vedere che non è così. E che la persona si renda conto che tutto questo fa parte di questo velo che è messo dallo Yetzer Hara per farci credere che le cose sono diverse. In realtà non sono diverse. E qui conclude tutta questa parte qui. E poi la prossima volta si approfondiranno altre maniere che lo Yetzer Hara cerca di portarci nella sua trappola.